Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati ancora da Mirko Cavallini Studio e di Daici in Regia, nuovo appuntamento con il mondo della scuola nel quale ritroviamo un'associazione che è l'AGE, Associazione Genitori, di cui conosciamo bene la realtà noalese. Ci spostiamo nell'altra parte del veneziano, che è quella del San Donatese, l'AGE Bassopiave, della quale conosciamo un po' di storia e iniziative. Lo facciamo con due rappresentanti che sono Giorgio Fregonese e Valerio Peretti. Benvenuti ad entrambi. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, Giorgio, partiamo intanto con un po' di storia, anzi direi prima, per i distratti, insomma, due parole proprio sull'AGE, sull'Associazione Genitori in quanto tale. Allora, buongiorno. L'Associazione Genitori è una federazione nazionale che conta oltre 200 associazioni locali che sono sparse su tutto il territorio nazionale e che si ripropone di mettere insieme i genitori, soprattutto per quanto riguarda tematiche e problematiche della scuola, ma non solo, affrontando in diversi modi le problematiche sull'aspetto educativo. AGE Bassopiave ha una storia un po' diversa, perché nasce, come tutte le associazioni, non è soltanto la storia di un'associazione, è una storia di persone, per cui diciamo che è diventato un po' il punto di arrivo di una serie di esperienze personali, la mia come quella di Valerio, come quella di tanti altri, di esperienza all'interno del mondo della scuola, all'interno della scuola media inferiore per nel nostro caso. Abbiamo, come dire, lavorato come rappresentanti a diverso titolo, rappresentanti di classe, rappresentanti del consiglio d'istituto, comitato genitori. Finita questa esperienza, perché i nostri figli hanno, come dire, compiuto questo percorso scolastico, abbiamo ritenuto importante radunare, riassumere questa esperienza e riportarla all'interno di AGE Bassopiave. Questo da quanto tempo, Valerio? Beh, l'associazione è molto recente, è dal 2011 che è stata costituita. In realtà il nostro lavoro, diciamo, per cui poi è stata messa questa etichetta, se vogliamo così dire, questo soggetto, è nato questo soggetto, è ormai da parecchi anni. Insomma, Giorgio in consiglio istituto ha fatto 9 anni, io mi sono coinvolto da circa 6 anni, insomma. Cammin facendo abbiamo incontrato varie persone, insegnanti, i dirigenti stessi, alcuni dirigenti che ci hanno, il dirigente nostro che ci ha dato questi spazi per poter poi anche esprimersi all'interno della scuola, insegnanti, dicevo, dirigente, genitori e amici che hanno voluto condividere con noi la cosa, ecco. Un conto è essere all'interno della scuola, appunto negli organi di rappresentanza, negli organi collegiali, anche come genitori. Poi i vostri figli, appunto, sono cresciuti, le medie sono andati anche alle superiori e forse anche verso l'università. Che differenza c'è nel rapporto con la scuola tra l'essere semplicemente rappresentante dei genitori e poi essere invece all'interno, come anche nella forma costituita di un'associazione? Credo che la differenza fondamentale sia passare dal preoccuparsi dei propri figli a preoccuparsi dei figli di tutti. E credo che oggi essere genitori voglia dire non preoccuparsi soltanto dei propri figli, ma preoccuparsi degli ambienti che i nostri figli frequentano. Ed è ovvio che essere genitori significa far sì che gli ambienti che i nostri figli frequentino siano ambienti accoglienti, portatori di valori, e in cui si possano fare esperienze costruttive e positive. Quindi è andare un po' al di là dell'esperienza di rappresentante dei genitori in una situazione istituzionale, ma è far sì che si possano creare insieme agli altri genitori esperienze e cammini positivi per i propri ragazzi. Questa nostra AGE Bassopiave nasce un po' dalla riflessione che ha fatto scaturire in noi, in una serie di un po' di genitori, l'inchiesta, quella alla sfida educativa, il rapporto alla sfida educativa, quel libro che fa un po' il punto della situazione sulla situazione educativa in Italia e che è stata messa al centro dell'agenda della CEI per i prossimi 10 anni. Ormai siamo già al terzo anno. Già al terzo anno, ma credo che queste cose ci sono gli input e poi valide comunque, certo. E, credo che sia è un rapporto che ci ha toccato molto da questo punto di vista e ci ha anche interrogato sul nostro ruolo di essere genitori, appunto, non solo all'interno della scuola in senso stretto e diretto, ma in un senso molto più ampio. Ecco, anche nel senso, Valerio, di rete, Giorgio diceva gli ambienti che frequentano i figli, quindi certamente c'è la famiglia, innanzitutto c'è la scuola, ma c'è forse una coscienza collettiva, civica, mi viene da dire, per cui bisogna appunto avere attenzione e cura in senso generale, no? Poi l'area del San Donatese ha una sua peculiarità anche urbanistica, di un centro grosso, ma anche di tanti centri piccoli in campagna. Beh, allora c'è da dire che noi, proprio come storia, diciamo, l'associazione è nata a San Donà, però già i primi iscritti erano anche di altre realtà, di altri comuni e di altre scuole che fanno riferimento a comuni limitrofi. Questi rapporti sono nati all'interno ancora di questi lavori, di questo lavoro all'interno della scuola, perché ci sono collaborazioni con altre associazioni. Per esempio, io sono membro di un comitato di genitori della scuola dell'Istituto Comprensivo Romulo Onor, e questo ha portato la nostra esperienza, noi siamo nati da questa, a incontrarci con altre realtà che hanno voluto ripetere in qualche modo la nostra esperienza all'interno della scuola anche nel loro comune, nel loro territorio. Vedi Noventa di Piave, vedi Fossalta di Piave, vedi, ci sono contatti adesso anche con Musile, eccetera. Insomma, per cui il discorso, dicevi inizialmente, della rete è questo, come anche il fatto di aprire collaborazioni, oppure usiamo il termine più corretto, alleanze educative anche in altri ambiti. Vedi il mondo dello sport, dove i nostri figli, ci siamo detti più volte, trascorrono parecchio tempo, per cui c'è questa necessità di rivedere, di ripensare assieme anche alla scuola, al mondo dello sport, alle parrocchie, all'associazionismo in generale, rivedere tutte queste realtà con la lente, crediamo, dell'educazione. Quindi creare alleanze dove è possibile, con chi sta a cuore questo, insomma, ecco. E poi vedremo appunto nel dettaglio con quali iniziative è stato attuato e sarà attuato questo principio. Lo faremo tra poco, dopo la prima pausa. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre e non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve. Domani invece devo ripartire, mi aspetta un altro viaggio, sembrerà come senza fine, ma guarderò il paesaggio. Sono lontano e mi torno in mente, ti immagino parlare con la gente. Il mio pensiero vola verso te, per raggiungere le immagini scolpite ormai nella coscienza, come indelebili emozioni che non posso più scordare. Il pensiero andrà a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Che per me è importante. raccontarti sempre quello che mi succede. Le mie parole diventano nelle tue mani forme nuove, colorate, note profonde mai ascoltate, una musica sempre più dolce, suono di una sirena perduta e lontana. Sembrerà di viaggiare io e te con la stessa valigia in due, dividendo tutto sempre normalmente. Il mio pensiero vola verso te per raggiungere le immagini scolpite ormai nella coscienza, come indelebili emozioni che non posso più scordare. Il pensiero andrà a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Che per me è importante. Pensiero ti verrà a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Che per me è importante. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Di nuovo insieme con questa puntata dal mondo della scuola dedicata all'AGE Basso Piave, Associazione Genitori, con Giorgio Fregonese e Valerio Peretti in studio con noi. Giorgio, parlavamo prima della pausa del concetto di rete che vorrei ampliassi un pochino, la collaborazione appunto tra l'associazione e le varie realtà educative. Poi voi siete genitori, ma immagino poi come tutti impegnati anche su vari fronti, quello professionale, quello familiare, associativo in generale, insomma si fa un po' tutto. Certo, infatti quando abbiamo pensato all'AGE non abbiamo pensato a un'altra associazione sostitutiva di realtà già presenti sul territorio, anzi AGE ha come obiettivo principale quella di valorizzare le esperienze positive che si sono già sul territorio e quelle di mettere in rete le diverse attività che già ci sono, forse noi non ce ne rendiamo conto, forse c'è una sottostima di quello che in realtà sul territorio si sta muovendo, o poca conoscenza di quello che si sta facendo. Anche perché le persone che compongono AGE, i soci di AGE, sono persone che sono già impegnate in diverse forme, chi fa la catechista, chi è impegnato in associazioni di volontariato, in gruppi missionari, in educatori, insegnanti, per cui, come dire, animatori, per cui andare a creare un'associazione che avesse un'attività propria diventava impossibile. In realtà il fatto di mettere in rete significa valorizzare le possibilità che ciascuno ha, creando una cassa di risonanza delle esperienze positive che ci sono. Per questo noi una delle attività fondamentali è quella del sito. Noi abbiamo un sito a San Donà, www.agebassopiave.net, ripeto, agebassopiave.net, in cui noi diamo spazio a tutte le iniziative proposte dalle diverse associazioni, ovviamente che sono in sintonia con quelle che sono le nostre finalità e quindi finalità dal punto di vista educativo e attenzione al mondo dei giovani, proprio per dare risonanza e pubblicità a quanto viene fatto. Di questo approfitto per ringraziare una nostra collaboratrice socia, Lilò, che è, come dire, particolarmente attenta alla gestione di questo sito. Ecco, scendendo nel concreto, Valerio, poi come si concretizza questo concetto? Come, quali sono le prime cose che avete fatto, insomma, da un paio d'anni in questa parte? Allora, il primo incontro che abbiamo fatto proprio per delineare una strada che abbiamo, di cui si diceva prima, che è una strada che vogliamo e abbiamo voluto percorrere proprio rispetto a quel documento di cui si diceva prima della CEI, appunto, è stato un incontro sulla sfida educativa. Abbiamo invitato un giornalista e scrittore, Fabio Cavallari, e assieme a lui e assieme anche al dottor Andrea Babbo, che è il presidente di un'associazione locale lì di Sandonà, si chiama Fraterra e Cielo, ci hanno aiutato a, come dire, a delineare un percorso, il percorso, a capire un po' meglio questa strada, in cosa consiste, se vogliamo, la sfida educativa, ecco, ad aprire questa finestra su questo tema che è molto, molto ampio e molto complesso, se vogliamo anche. Poi, proprio per quanto si diceva prima, abbiamo fatto a febbraio 2012 un incontro sulla questione dello sport. Abbiamo invitato, la serata è stata tenuta dal nostro presidente Fregonese, e il tema era: sport alleato o nemico nell'educazione dei nostri figli? Questo perché in noi c'è anche una domanda, nel senso che c'è il desiderio dei nostri figli e anche nostro che partecipano a questa attività, però dall'altra parte, nella vita quotidiana, perché appunto i nostri figli fanno sport e anche i figli di molti altri, abbiamo dei punti di domanda. Alle volte ci si chiede, proprio per le dinamiche che si creano all'interno del mondo sportivo della specifica associazione o addirittura squadra, ci si chiede se tutta la questione sportiva è alleata a quello che noi desideriamo maggiormente per i nostri figli, quindi dell'educazione che noi vogliamo per loro, prima ancora che il fatto che di pensarli campioni o altre cose. Cioè, se anche lo sport aiuta a educare i figli, a farli diventare... Assolutamente sì, e su questo abbiamo lavorato e stiamo cercando di lavorare, perché i genitori capiscano che, insomma, un bambino di 6, 7, 8, il mio ne ha 12 anni, vederlo già campione, quindi anche noi genitori un po' montarsi la testa, mi passi il termine, non ha senso. Insomma, la cosa bella, interessante, per esempio, per la mia esperienza, c'è questo, c'è un bel clima tra i nostri figli, tra i ragazzi e poi anche tra genitori, c'è un bel clima, quindi io ci tengo anche a investire del tempo, insomma, su questa cosa. Spero che possa esserlo anche per altri, in modo che sia, appunto, a favore del bene dei figli. Io cito spesso un episodio della mia parrocchia, un vecchio allenatore assolutamente fuori dal mondo parrocchiale, sì, quindi proprio di altra estrazione, che però allenava la squadra dei Pulcini, aveva come prima preoccupazione che i ragazzini, prima di arrivare all'allenamento, fossero andati a catechismo. Questo fosse, sì, sono tempi un po' passati, ma che sarebbe bene tornassero. Lo sport, Giorgio, ruolo educativo, poi c'è anche quella che chiamiamo in generale la società, o comunque altri ambienti che poi i giovani frequentano, soprattutto in ambito urbano, di punti di ritrovo. Insomma, i ragazzini delle medie cominciano poi a staccarsi dalla famiglia, anche a uscire un po' di più, a frequentare altri ambienti. Sì, è proprio all'interno di questa prospettiva che AGE Bassopiave ha cominciato a interloquire con quelle anche che sono le realtà istituzionali. Non tanto andando a fare attività diretta con i ragazzi, quanto ponendosi come punto di riferimento e punto di confronto con chi istituzionalmente deve fare una politica giovanile. Cito a questo esempio quello che stiamo facendo in questo momento, e che collaboriamo con il SERD, Servizio Dipendenze dell'ASL locale, nell'attività di formazione degli adulti. Perché credo che sia importante sottolineare questo aspetto: la formazione non è una cosa che riguarda soltanto i ragazzi, ma crediamo in una formazione permanente, a cominciare dagli adulti, che si educano per educare a loro volta meglio i propri figli. Su questo noi abbiamo già, non è il primo anno, sviluppiamo una serie di incontri con esperti proprio sul ruolo del genitore all'interno di dinamiche sicuramente molto più complesse che la società attuale pone alla nostra attenzione. Non solo, con AGE creiamo anche rapporti con realtà, con le parrocchie locali, con l'oratorio salesiano di San Donà di Piave, che è una realtà che per quanto riguarda, molto importante per quanto riguarda il mondo giovanile, è un oratorio interparrocchiale e vede al proprio interno diverse realtà giovanili, 700-800 ragazzi di diverse fasce di età che settimanalmente si ritrovano nei diversi gruppi. Ecco, quello che dicevo prima, creare rete è mettersi a servizio anche di queste realtà che già funzionano, perché il problema è di mettersi a servizio per farle funzionare ancora meglio. E avendo anche una coscienza, diciamo, condivisa al fine dell'educazione dei giovani. Ultima pausa e poi torniamo insieme con il mondo della scuola. Dal mondo della scuola. Yes, you've always. known, you took my life for granted. Why, oh why, this show is over, say goodbye. I've always been in love with you. I guess you've always known it's true. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola con Giorgio Fregonese e Valerio Peretti dell'AGE Basso Piave. Siete genitori, siete impegnati appunto in questo mondo variegato dell'educazione, poi ci sono anche problemi concreti da affrontare. Una delle novità portate dalle varie riforme della scuola per questo 2013, per il prossimo anno scolastico, sono le iscrizioni, che sono solo online, adeguate certamente ai tempi e alla tecnologia, però Valerio, non tutti sono così tecnologici. Ecco, confermo, nel senso che è chiaro che la scuola, la società in generale sta andando verso l'utilizzo più deciso di questi strumenti, però sappiamo che ci sono famiglie che hanno e avranno difficoltà perché non hanno un PC, per cui o non sanno utilizzarlo, insomma, in modo adeguato. Allora vorremmo, e in questo siamo già in contatto con il mondo della scuola, prestarci gratuitamente per poter sostenere per le famiglie che vogliono iscriversi, fare questi adempimenti online, e sostenuti, insomma, in qualche modo aiutati tecnicamente da noi, insomma, sempre con questo rapporto di collaborazione, perché crediamo sia la strada giusta, con la scuola. Appunto, perché poi c'è solo questo modo di farla, no? È stata eliminata, appunto, la carta, però sì, questo crea ostacoli a qualcuno. C'è un'iniziativa che avete, Giorgio, che riguarda i libri, vuoi spiegarci? Sì, sostenere le famiglie significa anche fare qualcosa concretamente in questa situazione economica, anche proprio dal punto di vista finanziario. Quello che stiamo cercando di fare, devo dire con non poche difficoltà, è quello di lavorare nel settore dei libri scolastici. Non è vero che la scuola è gratuita. La scuola costa, mandare un figlio a scuola costa, e la voce di costo più grossa è sicuramente quello dei libri di testo. Lo è da sempre. Lo è da sempre, però è una, come dire, in questo momento in cui la scuola ha avuto diversi tagli dal punto di vista finanziario, non si capisce perché non si possa, senza chiedere ulteriori risorse alle famiglie, spostare dei soldi dalla questione dei libri ad attività educative o di formazione all'interno della scuola. Su questo ci stiamo impegnando, confrontandoci anche proprio con i dirigenti scolastici, con il nostro in particolare, il dirigente sabellico della Romolo Honor, da cui noi come dire, proveniamo come esperienza concreta, Romolo Honor di Saint-Donat, confrontandoci sulla possibilità di passare o alla parte, come dire, informatica di questo aspetto, oppure anche proprio semplicemente promuovendo la possibilità di mercatini di scambio dei libri usati fra genitori, creando quell'ambiente in cui i genitori possono scambiarsi libri che molte volte vengono usati parzialmente e non completamente, per ovvie questioni, certo, come dire, di didattiche, ma che comunque rappresentano sempre un valore, che possono essere utilizzate da altre famiglie. Questo in collaborazione con la scuola, mantenendo gli stessi libri di testo, cercando di mantenere i libri di testo più possibile al di là di quello per più anni. Questo è sicuramente una delle possibilità concrete. Abbiamo lavorato molto anche sull'aspetto informatico della scuola. La nostra scuola è stata scuola capofila sul progetto 2.0 e sulla possibilità, dal punto di vista sperimentale, di introdurre il computer come strumento didattico per gli studenti. Ecco, da quello che si capisce, siamo verso la chiusura, il mondo, questo mondo, insomma, su cui voi lavorate, è un mondo in cui si coinvolgono anche tante persone, anche generazioni di genitori nuovi, che insomma i cui figli stanno arrivando proprio alle scuole medie, occasione anche per consolidare e intrecciare nuove relazioni. Sì, direi che in assoluto lo scopo dell'associazione non è quella di creare attività o di fare attività, ma credo che poi credo che sia una una necessità che scopriamo nella vita di ciascuno di noi, che è quella di creare legami con le persone. È un'esperienza che si fa per creare legami con le persone, che credo che in assoluto sia la cosa di cui più si senta bisogno in questo momento. Le famiglie non devono essere lasciate da sole, ma pensare che possono contare sull'aiuto anche di altre famiglie, sull'aiuto di altri genitori, perché come dicevo prima, oggi essere genitore e quindi essere educatore vuol dire preoccuparsi non solo dei propri figli, ma anche degli amici dei nostri figli. E quindi su questo è importantissimo. Fare educazione vuol dire creare soprattutto legami, non solo fra i ragazzi, ma fra i genitori e fra le famiglie. Questo non per farsi gli affari degli altri, ma per condividere appunto assolutamente anche una passione educativa e un valore comune. Allora, grazie ad entrambi per essere stati con noi, Valerio Peretti e Giorgio Fregonese dell'Age Basso Piave. Ricordo il sito www.agebassopiave.net, così magari può essere fonte di ispirazione anche per altri territori dove l'Age non è ancora presente. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie a Didaici in regia, voi per l'ascolto. Da Mirko Cavallina, appuntamento con il mondo della scuola fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.